L'accordo per Mirafiori, che altrove non avrebbe firmato solo perché è italiano? Diciamo per la sfida Italia. Si può fare, dunque si deve fare. Sergio, una domanda, ma senza il voto degli impiegati il sì sarebbe passato con uno scarto di appena 9 voti. Che cosa significa questo? Niente, possiamo esercitarci all'infinito, togliere i lavoratori alti, quelli bassi, quelli coi baffi. Conta il saldo, il risultato, nient'altro. Sergio, Sergio, una domanda per me, per favore, Sergio, Sergio, sono qui, Sergio. Ma non crede che ci sia chi ha votato no semplicemente perché ha visto una compressione dei diritti legati al lavoro? Non abbiamo compresso alcun diritto. Le pause, la rappresentanza, lo sciopero, la malattia. Qui le condizioni cambiano. Un conto è parlarne da fuori, politicamente. Un conto è parlarne in fabbrica. Amelfi, la metà dei lavoratori ha ridotte capacità per i lavori in linea. Non credo che queste condizioni che lei minimizza pesino? No, non credo. E comunque noi facciamo automobili. L'auto nel mondo si fa così. Chi viene in fabbrica lo sa. Sergio, una domanda per me, per favore, Sergio. Ma lei come vede il futuro di Mirafiori? Come lei ben sa, la nostra finanziaria ha operato in Gathering the Spops, all'interno di un sistema di globalizations. Il gruo spread non è stato favorevole, siamo quindi stati costretti ad una killer warrant, satisfactory fight to deliver Safe Harbor. E comunque abbiamo un disperato bisogno di SUV. Sì, ma che cosa resterà di italiano nelle nuove auto prodotte a Mirafiori? Il design, i progetti, le piattaforme di origine, la motoristica rimangono qui. E la testa? Bisognerà abituarsi al fatto che avremo più teste. A Torino, a Detroit, in Turchia, spero anche in Cina. E un cuore solo. Così rimarranno vive quelle quattro lettere del marchio Fiat. Fabbrica. Produciamo ancora, vogliamo produrre di più. Italiana. Siamo qui e non vendiamo nulla. Automobili. Resta il cuore del business. Torino. Se ha dei dubbi, apra la mia finestra e guardi fuori. Come ha votato? Sorridete. Non so tutta la linea. Che domanda c'era sopra? Sì o no? Come se le immagina le sue giornate con turni di 10 ore? Io non riesco a immaginarla. Io per fare 8 ore sto fuori di casa 11 ore. No. Ha votato no. No. Sì. Ci sono no. No. Ho votato no. Il referendum per Mirafiori? Se vince no con 51%, la Fiat non fa l'investimento a Mirafiori. Per cui sembra che gli operai della Fiat di Mirafiori siano lasciati un po' a se stessi per decidere tra il sì ed il no, e Fassino ha deciso che lui voterebbe così con la penna. Come sono organizzati i turni, come sono organizzate le pause, come è organizzata una mensa, non è un diritto, è una condizione di fatto. Hai lottato fino in fondo. Istituto di bellezza Mai Più Sole. 5 trattamenti all'acido mandelico, 210 euro. 4 trattamenti body age e dimagrimento, 220 euro. 5 algoterapia più massaggio, 330 euro. 4 sedute di pressoterapia, 200 euro. Oggi all'uscita della fabbrica delle ragazze bellissime volantinavano questa pubblicità. Io lo so che per la cellulite ci vuole movimento e palestra, ma non ho tempo. Allora sono andata all'istituto di bellezza Mai Più Sole. Sola, naturalmente. E mi ha accolto una signora sui 50 con un camice da dottore, molto scollata, labbra gonfie, abbronzatissima. Mi ha spiegato, cioè spiegato con quelle labbra non è che si capisse un granché. Comunque mi ha spiegato che il centro è all'avanguardia per la lotta contro la cellulite. Il centro è all'avanguardia per la lotta contro la cellulite. E lo ha detto con un tale livore che sembrava che lì si combattesse la lotta contro l'Alzheimer. L'ultimo ritrovato? Ha mormorato come fosse un segreto da non svelare. È il trattamento con un nuovo innovativo macchinario rigenerante, ristrutturante. Si tratta di un macchinario che cattura la pelle tra due rulli. Questo meccanismo di rotazione consente di massaggiare la pelle per aspirazione e permette un movimento trasversale grazie anche alle valvole laterali che si adattano al tipo e al volume della cellulite. È un anti-aging, antiossidante, anti-invecchiamento. Va a agire proprio sulla pelle rilassata. Se poi lo vogliamo abbinare a 5 sedute di pressoterapia, ora vediamo, le faccio il conto. Con 489 euro lei mi torna qui tra un mese a ringraziarmi. Sono uscita da lì con il preventivo nella borsetta e ho cominciato a pensare. 489 euro per 6 euro l'ora sono 81 ore di straordinario. 27 ore al mese non ci penso più. Sacrificio, sì, però tra 3 mesi la cellulite sparirà. Poi camminando verso casa ricomincio a pensare all'anti-aging, all'antiossidante, alla pelle rilassata. Rilassata, ha detto. Rilassata? Magari fossi rilassata. Non c'è niente di rilassato qui. Distrutta, casomai, non rilassata. Distrutta. Magari me la faccio anche io qualche lampada. Così silhouette perfetta mi eleggeranno Miss Catena. 80 ore di straordinario, Miss Catena. 10 giorni di lavoro in più in 3 mesi, Miss Catena. Miss Catena. Miss Catena, una rabbia inimmaginabile. Io ho la cellulite. E allora? Lavoro 50 ore a settimana. Sto in piedi almeno 8 ore al giorno. Vado a pisciare 3 volte in 8 ore ad orari comandati. Beviteli te 2 litri d'acqua, poi voglio vedere come ti pisci addosso. Non ce la faccio ad andare in palestra, perché quando stacco alle 6 di mattina dopo il turno di notte, l'unica cosa che voglio fare è tornare a casa e morire, perché 8 ore dopo riattacco. Non sono rilassata. Sono distrutta, non rilassata. Distrutta! Il mio turno inizia alle 6. Quando sono fuori dal cancello è ancora buio. Me lo ricordo. Lo zaino a tracolla, la bottiglia d'acqua, le pasticche per il mal di testa. Cancello, portineria, timbriamo. Sono dentro. In fila, zitti. Hanno tutti troppo sonno per dire qualcosa. Poi bisogna risparmiare il fiato per riuscire a percorrere quel viale che rivedrai solo dopo 8 ore di produzione. La linea va a 364. 364 macchine prodotte ogni giorno. Vogliono farla salire a 371, poi a 378, ma così non ce la fai, ti imbarchi. Invadi la postazione del tuo vicino. Il nostro è un mestiere fisico. È come correre una maratona. Prelevo pezzo dal cassone, montaggio pezzo, prelevo minuteria, avvito. Poi prelevo chiave, smontaggio a chiave dei tubi, chiusura con polso e dito, montaggio tubi. Dura poco più di 90 secondi e si ripete 250, 270 volte a turno. A volte sto avvitando un bullone e vorrei bere. Allora dentro di me penso, devo riuscire a risparmiare almeno 20 secondi sulle prossime 4 macchine così da accumulare il tempo necessario per prendere la bottiglietta. A volte quando mi cola il naso vorrei spararmi. A volte accade che tu risparmi quei 20 secondi. Corri a prendere la bottiglietta di plastica che ha già preso un tuo compagno e siccome è bagnata ti scivola dalle mani. Ti cade. Hai idea di che cosa significa? Tornare a recuperare tempo sulla linea quando non hai bevuto e l'acqua ti cola sotto i piedi. Mi vengono in mente le elementari. Aveva piovuto fino a metà mattina. Poi era uscito un sole bellissimo. La maestra ci mandò in giardino a giocare, raccomandandosi di non bagnarci nelle grosse pozzanghere che si erano formate. E quando uscì dalla classe per richiamarci, trovò tutti che gridavano e ridevano felici, battendo i piedi nelle pozzanghere, schizzandosi uno con l'altro. Tutti, tranne me. Solo io ero rimasta all'asciutto, immobile, ad osservare la scena, terrorizzata, bianca come una morta. La maestra punì tutti, tranne me, naturalmente, mostrandomi come esempio. Tornando a casa immersi i piedi in tutte le pozzanghere che ho incontrato. Mia madre mi diede 2 ceffoni. Promisi che non l'avrei più fatto. Il lavoro mobilita l'uomo. Ti senti più mobile adesso? No. Ho fame. vuoi? Niente. No, è che la tua cena ha un aspetto veramente orrendo. Questo passa al convento. Generoso. Meglio questo che niente. Ah, sì, dici. Sì, dico e mangio. Ho ancora fame. Non hai pranzato? C'era la fila. C'è sempre la fila. Gente che spinge, come a Luna Park. Ma senza giostre. Solo un vassoio vuoto. Ti fanno male le spalle, le gambe. La testa. Non c'è mai il tempo di sedersi. Domani è un giorno importante. O questa minestra o ti butti dalla finestra. Prendi una mela, bella bambina. Domani è un giorno importante. Domani sarà diverso da oggi. Me l'hanno spiegato. Pistola alla tempia, mano al portafoglio. Noi lavoriamo al secondo. Ma se arrivi secondo non sei primo. E ci sarà sempre qualcuno migliore di te. Qualcuno disposto a mangiarsi tutto. Chino sul piatto senza guardare. Stai dritta con la schiena. No. Stai con la schiena dritta. Basta. È solo una X. La catena di montaggio. È solo una X. Lo straordinario obbligatorio. È solo una X. Il tunnel carpale. È solo una X. Posso andare in bagno? È solo una X. Documenti, prego. È solo una X. Il male minore. È solo una X. Il mutuo a 30 anni. È solo una X. Ti pagheremo tra 90 giorni. È solo una X. In 500 su un barcone. È solo una X. Il lavoro in nero. È solo una X. Lo stage. È solo una X. La spartizione delle poltrone. È solo una X. Questo è il miglior mondo possibile. È solo una X. No. È solo una X su un foglio. No. È solo una X su un sì o su un no. No. Sì. No. Fabbrica. C'erano tutte quelle macchine. Una stava la bobinatrice, un'altra ai filtri, un'altra ai volanti, poi si metteva tutto insieme. Capito come? Era una fabbrica diversa. Però se dovevi fare la pipì, non potevi andare quando volevi tu. Dovevi aspettare il tuo turno. E a volte davanti a te ci sono 3 o 4 mani alzate. Ma poi quando è il tuo turno, correre? Pausa. 10 minuti. 60 scalini. Bagno occupato. Aspetti. Bussi. Aspetti. Lei esce. Tu entri. Bottone. Zip. Giù i pantaloni. Giù le calze. Giù le mutande. Tichini. Pisci. Ti accendi una sigaretta. Ti asciughi. Sigaretta in bocca. Sulle mutande. Sulle calze. Sui pantaloni. Bottone. Zip. Altri 2 tiri di sigaretta. Sigaretta nel cesso. Tiri l'acqua. Esci dal bagno. 60 scalini. Torni in catena. 1 minuto di ritardo. Multa. Fiat 24 HP. Fiat 24 Fiat HP. 40 HP corsa. Fiat 40 HP corsa. Fiat 508C 1000 miglia. 508C 1000 miglia. Fiat Balilla. Fiat Balilla. Fiat Balilla 4 marce. Fiat Balilla 4 marce. Fiat Dino Coupé. Fiat Dino Coupé. Topolino. Topolino. Robogate. Robogate. Argenta. Argenta. Regata. Regata. Croma. Croma. 1. tipo, uno, ritmo, tipo, tempra, ritmo, punto, tempra, punto, due, punto due, punto due restyling, punto due Ulisse, styling, Ulisse, barchetta, barchetta, marea, marea, ti marea, ti marea, B-power, B-power, bravo, bravo, brava, brava, palio, palio, palio weekend, Siena, Siena, Acbea, Acbea, strada, strada, fiorino, fiorino, 600, 600, multipla, grande multipla, grande nuova multipla, bravo, punto due, 600, 3 più 1, 1100, 1300, 1500, 1700, 1900, X119, panda! X119, panda! Sono stanca. Anche io. Vincere 500 euro in gettoni d'oro e una nuovissima 600. Fiat! Ha scelto come argomento a piacere il referendum di Mirafiori e dovrà decifrare i punti salienti dell'accordo dal nuovissimo contratto e dal loro complicatissimo gergo tecnico aziendale. Mi sente? Sì. È felice di essere qui? Sono un po' emozionata, però. Perfetto. Allora iniziamo subito con la nostra prima domanda. Le associazioni non firmatarie, anche se confederali, non avranno più alcun diritto di indire assemblee. Chi vota no è fuori. Le decisioni potranno essere prese soltanto dall'alto e soltanto da coloro che hanno firmato l'intesa. La risposta è... La risposta... È esatta! Passiamo subito alla nostra seconda domanda! A decorrere... dal 4 aprile 2011, presso lo stabilimento Mirafiori Plant sarà definitivamente applicato il sistema Ergo UAS. Ergo UAS è la nuova tecnica di misurazione ergonomica dei tempi di lavorazione. Le postazioni di lavoro sono divise in verdi comode, gialle semiscomode, rosse scomode. La risposta non è completa. Quando la postazione è verde, l'azienda può aumentare i ritmi di lavoro e tagliare le pause. In questo caso si dice che la postazione è satura al 99%, ovvero si hanno 99 secondi di lavoro e un secondo di pausa prima che arrivi la vettura successiva. E grazie al sistema di misurazione Ergo UAS, quasi tutte le postazioni di lavoro risultano verdi e quindi satura al 99%? Complimentoni! Ma la risposta è di nuovo esatta! Abbiamo una concorrente preparatissima questa sera! Passiamo di corsa alla nostra terza domanda! Primo schema d'orario: 8 per 3 turni distribuiti sulle 24 ore per 5 giorni la settimana. Secondo schema d'orario: 8 per 3 turni distribuiti sulle 24 ore per 6 giorni la settimana. Chiedo l'aiuto del pubblico. Ah! La concorrente decide a questo punto della partita di giocarsi il jolly. C'è qualcuno in sala che vuole aiutare la nostra concorrente? Oh, nessuno che vuole aiutarla a vincere il nostro favoloso montepremi. Vedo una mano alzata. Abbiamo un coraggioso volontario. Mo ci dia la sua risposta. La fabbrica non chiude mai. Oh, grazie, signor Sergio. Accetto la risposta. E la risposta è... La risposta... Facciamo un grande applauso al signor Sergio! Ma andiamo subito verso il nostro rush finale. Le soluzioni ergonomiche migliorative permettono sulle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo un regime di 3 pause da 10 minuti. Ciascuna. Sì, e 3 pause e da 10 minuti ciascuna. Allora, sì, e significa che stamattina mi sono svegliata alle 4:30, sono uscita di casa alle 5, ho fatto 40 chilometri con la macchina, sono arrivata al lavoro alle 5:30. Il mio turno il inizia alle 6. Il tempo scorre. La linea va a 364, 361, 376 e si ripete 250, 270 volte al giorno. No, quello che è insostenibile è il ricatto. Se noi diciamo sì questa volta, questa imposizione si spanderà a macchia d'olio, compromettendo in peggio il futuro di tutti, per interesse di pochi. Ai, ai, ai, ai. La risposta non è corretta. La nostra concorrente, con questa defiance, stasera perde i soldi, la macchina e purtroppo anche il lavoro. Non riesci a dormire? Vuoi parlare? Non ci riesco. Sì che ci riesci. Respira. Intrappolata. Ascoltami. Respira. Cos'è che ti schiaccia? Ho paura. Io sono qui. Eppure è come se non ci fossi. È come se le mie braccia si muovessero al di là di me. Come se le mie gambe andassero dove non voglio andare. Come se il mio cuore battesse senza che io abbia il tempo di ascoltarlo. Cos'è che ti muove? La linea va avanti, anche se tu non sei lì. Vuoi fermarla? Quando sono lì, con la macchina che mi spinge contro le gambe, io aggiungo un pezzo, faccio un passo indietro. Aggiungo un pezzo, faccio un passo indietro. Aggiungo un pezzo, faccio un passo indietro. Aggiungo un pezzo, faccio un passo indietro. Quando sono lì, con la macchina che mi spinge contro le gambe, io certe volte vorrei soltanto cedere, lasciarmi travolgere. Però non lo fai. Stai con la schiena dritta. No, stai dritta con la schiena. La fabbrica è dentro la tua testa. I tuoi stessi pensieri sono il frutto di una catena di montaggio, oliata, silenziosa, invisibile, subdola, persuasiva. Il tuo inconscio viene costruito pezzo dopo pezzo, fino a farti apparire ovvia quella che è soltanto un'imposizione. Tutto è calpestato. Vince l'efficienza. Siamo governati da una narrazione. A questo si può rispondere solo con un sogno. Un sogno che ci sveli la realtà per trovare il coraggio di cambiarla. Non capisco. Sì, capisci. Ma costa troppo. Ho bisogno di tempo. Hai tutto il tempo? No, no, non ho tutto il tempo. Ci sono altre cose che si devono fare. Proprio che si devono fare. Tipo? Lavoro, soldi, famiglia, macchina, innaffiare, ceretta, shampoo, aperitivo, no, guardare... Davvero vuoi fare tutte queste cose? No. Allora non farle. Non farle è come smettere di esistere. Non puoi svegliarti ogni mattina con la paura di evaporare. Finirai per evaporare. Io non voglio evaporare. Lo so. Fiori, tanti fiori. Sentivo cantare e mi veniva caldo. Ero fuori, il sole era alto. Scarpe nell'acqua, respiro piano. Un viale conduce ad una grande casa, ma non posso raggiungerla. Non posso, sono paralizzata. So quello che vorrei fare, ma i miei muscoli non rispondono. Alle mie spalle qualcosa mi minaccia. Poi tu, davanti a me, sorridi. Mi tendi la mano e mi indichi il viale che conduce alla grande casa ricoperta di fiori. Quanti fiori! Sbocciano continuamente. Guarda i fiori, mi sussurri. Io sono lì, immobile. E tu mi sfiori la mano. Ora penso che devo fare qualche cosa. Sento il sangue che comincia a circolare. È la prima volta ed è bellissimo. Ora parli. Ti sento appena, ma capisco. Uscire fuori di me. Ti guardo, sei identica a me, siamo una cosa sola. Ora cammino. Finalmente cammino senza fatica. Ci abbracciamo, siamo ricoperte di fiori, tutto mi è chiaro. Arriviamo alla grande casa. Fa molto freddo. Le porte alle nostre spalle si chiudono. Rumore dei catenacci. Tu scompari. Io sono prigioniera. Apro una grande porta. Un'enorme macchina a pistoni. Da un buco vomita mazzi di fiori. Sono attraenti, mi avvicino. Sono metallici, lucenti, splendenti, perfetti. Ma non hanno nessun odore. non c'è amore. Provo a coglierli. Sono affilatissimi. Da un profondo taglio sulla mano il sangue comincia a scorrere. Non riesco a fermarlo. Ti cerco, ti chiamo, tu non rispondi. Piango. Sono disperata. Sento il suono della sirena che segnala il fine turno. Riconosco i miei compagni. Siamo tutti in fila, pronti per uscire. Sanguiniamo come un corpo unico, ma restiamo lì, incapaci di muoverci. E tu non ci sei. Questo tempo in cui ci salveremo tutti o non si salverà nessuno. I lavoratori che producono direttamente auto in Fiat sono 30.100, 62.000 invece quelli dell'intera Fiat S.P.A., comprendendo anche i 3.000 della Ferrari e i 700 della Maserati. Di questi, circa 11.000, compresa Termini Imerese, sono in cassa integrazione, sia pure momentanea. Per quanto riguarda chi è restato in cassa in produzione, le denunce della FIOM, di fatto mai smentite dagli altri sindacati, parlano di intensificazione dei ritmi di lavoro e di fatica a sopportare la nuova organizzazione Ergo Guas. Gli investimenti finora realizzati sono 4,5 miliardi suddivisi tra Mirafiori, Melfi, Pomigliano e Sevel. Quando lanciò il piano Fabbrica Italia, presentato anche alla Camera dei Deputati, Marchionne annunciò 20 miliardi. La busta paga netta di un operaio italiano è in media sui 1.100-1.200 euro, se gli va bene. Quella di un operaio polacco o uno brasiliano è di 600 euro, quella di un serbo 200 euro. Mentre di nuovi modelli Fiat manco si vede l'ombra, la Chrysler è tornata a produrre vetture e a macinare utili. Lo Stato, che per 100 anni ha foraggiato la Fiat con finanziamenti a fondo perduto e agevolati, il mercato interno protetto, la svendita dell'Alfa Romeo, le casse integrazioni a raffica, non ha più la possibilità di scegliere i cordoni della borsa e lasciare il lingotto nella sua natura di impresa pubblica di fatto. Libertà è soltanto una parola e c'è soltanto una realtà, l'atto di liberarci nel processo di operare una scelta. Ogni atto di resa e di cordardia mi indebolisce, apre la via ad altri atti di resa e alla fine la libertà è perduta. Ogni passo nella mia vita che aumenti la fiducia in me stesso, la mia integrità, aumenta anche la capacità di scegliere l'alternativa desiderabile. Con questo principio nel cuore si può non soltanto valorosamente, ma anche gioiosamente vivere e gioiosamente ridere.